Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Le 8 e 21 minuti, ci siamo! Tutto luglio fino alle 9.30, caro Oscar. Eccoci qua, ci siamo almeno per luglio, poi della vita. Chi lo sa, chi vivrà vedrà. Si vedrà. Ma io ti hanno visto, scusa, anche tu pare che stai contrattando, firmando. Cioè, sì. Perché sei dietro, pare che dietro un metro nella stessa linea di porta di Donnarumma ci sei anche tu nel contratto. Sì, sì. Mi hanno detto così. Ho detto così. Mi accontento della metà. Io, per te, posso dire che voglio che tu riesca a portarlo a casa questa cosa. Esatto. Ma scusa, poi del resto bisogna capire l'Italia. Macron che delude l'Italia. Abbiamo fatto tutto sto casino a dire che chiudevamo i porti e pare che ci sia questo accordo, sia le bandierine per comunicare all'ONG. Insomma, se finisce così mi sembra un po' paradossale. Almeno con Donnarumma ci si diverte. Ma esatto. Ma infatti guarda, anche su questa storia, allora, due cose, ma prima l'ho detto rispondendo a un ascoltatore, Oscar, so che su questo con te sfondo una porta aperta, non sopporto gli invidiosi sociali per cui Donnarumma si discute se meriti o no quei soldi dal punto di vista del valore calcistico. Gli è chiesto, esiste una società che glieli paga. Esatto, e questo possiamo discutere, perché poi non so quanto sono, 5 milioni, 6 milioni, spero 7 per lui, non lo so. Chissà se questi soldi poi ci saranno tra due anni. Questo non si può sapere effettivamente. Arriva il signor Elliott con il fondo a darceli con un interesse del 4000%. Insomma, come sempre la vita è questo eterno dilemma, no? O arriva al fondo o si va a fondo. Poi alla fine sempre lì siamo. Però detto tutto questo, insomma, hai secondo me l'approccio giusto, sano distacco e nessuna condanna. Sì. Vediamo se ci fa vincere i derby. Tutto qua. Dai, sull'ONG, però, siamo stati i primi anche a criticare, a fare trasmissioni anche tra gli strali di persone, colleghi, ascoltatori che ci dicono: ah, le ONG, toccate le ONG. Abbiamo solo posto dei dubbi. Esatto. Però Oscar, io oggi mi sono sentito di twittare questo. Adesso, se il problema dei migranti sono le ONG che li prendono e non invece un'Europa totalmente inesistente su questo, è una vergogna indicibile porla così. No, tutta questa vicenda, secondo me, purtroppo l'Italia raccoglie gli effetti di tantissimi anni di errori. Questa è la mia opinione. Detta così sembra che uno voglia sempre solo frustare il proprio paese. Però, cari ascoltatori che non la pensate così, se non avessimo commesso tanti errori per tanti anni, non esisterebbe neanche l'atteggiamento europeo nei nostri confronti, che ovviamente oggi, tra virgolette, gode, chiuse virgolette, del fatto che siamo rimasti l'unico canale aperto verso i paesi da cui provengono i profughi, perché quello balcanico è stato sigillato con l'accordo con la Turchia. E il problema è un po' questo qua. Sono d'accordo con te, ovviamente. Anche questo singolare problema dell'ONG non esisterebbe se l'Italia non avesse avuto così tante incertezze sul ruolo da seguire negli anni. Perché alla fine? Perché una qualunque scelta fosse stato un modello di integrazione ben organizzato e solido nel nostro paese, che si esponeva alle critiche di chi diceva non li vogliamo, quanto invece un ruolo di interdizione attiva, chiamiamola così, come facciamo nell'Adriatico rispetto all'Albania, che invece si esponeva all'obiezione politica opposta, cioè di chi dice: ah, l'atteggiamento in Italia di destra che non capisce il ruolo dei profughi importanti per noi, la politica non è riuscita mai a prendere né l'uno né l'altro. E così si è ammessi, e tutti gli altri che fanno adesso, non voglio sembrare preso in giro, marameo, però fanno marameo. Ma fanno marameo. Però Oscar, c'è una domanda alla quale nessuno risponde. Oggi hanno intervistato ancora Regina Catrambone, ti ricordi, che lei dice: perché non vanno in Spagna, Malta, Tunisia? Io li porterei lì, perché? E giustamente il giornalista dice: ma ce lo dica lei, perché E rimane questa domanda sospesa. Nessuno riesce a rispondere in maniera banale o ma efficace del perché in Italia sono arrivati 88.000 immigrati, oggi c'è scritto sul Sole, e in Spagna 6.000 e in Grecia 9.000, a Malta 0. Cioè non c'è una domanda, è una domanda semplice, perché non succede? È una domanda semplice, ma la risposta è semplice, però non è tollerata dalla politica, perché la risposta semplice è gli accordi che abbiamo fatto, quelli per cui sono nati per esempio le due missioni europee salutate dall'Italia come un grande passo avanti, eccetera. Quegli accordi lì sono fatti accettando l'idea che l'unico porto di salvezza per chi viene salvato. Abbiamo preso dei soldi in cambio di questo. Hai capito? Questo. Allora, noi abbiamo ucciso un credito. Soldi che adesso non ci servono. Ma non si può dire, perché se la mette così significa che tu stai dicendo Italia, pentiti dei tuoi errori, capisci? No, pentiti, ecco. Oppure utilizza quei soldi che hai preso per utilizza gestire. Utilizza quei soldi per che gestire. Hai preso, che però è una polemica come sai da mesi con Renzi, che non bastano, l'Europa non capisce. Noi siamo vittime di errori, secondo me, commessi in larga misura agli altri. Poi se tu mi chiedi però la generosità europea, quella zero, c'è visto con Macron, a questo punto ti diranno hai ottenuto i soldi accettando che il porto sia il tuo. Questo è uno dei motivi per cui per tanti anni l'Europa diceva i vostri outpost non procedono all'identificazione, fate i furbi, volete i soldi e poi non procedete all'identificazione e così via. Quindi è una lunga diatriba. Forse io ho sperato che il gesto di venerdì fosse un cambio di marcia, cioè il blocco dei porti, la minaccia di blocco dei porti, cioè o cambiamo regole oppure siamo anche disposti a farlo. Ora vedo che l'impianto scricchiola e poi diventa un boomerang. E adesso diventa, sono regolamentiamo le ONG, che è giusto mettere regole. Però, sì. No, ma è giustissimo. Cioè che non spengano i transponder, che non li vadano a prendere a bordo della Libia, che giustissimo. D'accordissimo. Ma adesso temo che il problema però del porto unico italiano così non cambi, capito? Che quello è il punto vero. Esatto. Cioè far passare come vasi di coccio le ONG in questa diatriba europea, vogliamo dire proprio macro europea, è un po', un po' ridicolo. Anzi, Macron europea, così Macron, ci capisce. Macron europea. Ormai è proprio Macron europea. Allora, comunque non resta che pregare per chi crede. Esatto. Ecco, oggi è Santa Elisabetta del Portogallo, regina del Portogallo, grande santa del nazionale, che da piccolissima, figlia di Pietro III di Spagna, fu re di Spagna, fu promessa dodicenne a Dionigi, re del Portogallo. Giovanissima, era sempre un'alleanza matrimoniale tra regni che all'epoca e ancora poi per molto tempo dopo si combattevano brutalmente. Avrà una vita complicata, perché il marito era un tipo manesco, violento, guerrafondaio, ubriacone e traditore, e però alla fine riuscirà anche a convertire lui dopo la morte del marito. Avrà a che fare ancora con i figli che si fanno la guerra tra di loro, con la Spagna, eccetera, eccetera, se non che morirà in chiarissimo odore di santità come terziaria francescana, e ancora adesso a Coimbra le sue reliquie sono venerate come insomma è la santa nazionale, Santa Elisabetta del Portogallo, ed era quella appunto che festeggiavamo con la mia prima moglie prima che se ne andasse. E vabbè, che cosa ricordare di oggi? Ricordare oggi che il 4 di luglio chiunque ami la libertà ha chiaro l'importanza della dichiarazione di indipendenza delle 13 colonie dalla Gran Bretagna nel 1776. Per quello che mi riguarda, ora e sempre, come lo dico per Israele, lo dico per gli Stati Uniti, viva gli Stati Uniti d'America, giusto o sbagliato che sia, per quanto i presidenti siano pazzeschi a volte pro tempore, devo dire che questo sta veramente a volte ponendo qualche problema per quello che fa, però insomma è la grandezza della democrazia, è questa. E pensa che nel 1996 nasceva oggi Hotmail, ed era la prima posta internet gratuita su internet. Sembra un milione di anni fa, sembra una cosa che sia sempre esistita. E solo neanche l'altro ieri in termini storici. Da questo che passi da gigante abbiamo fatto nel frattempo. Gino Lollobrigida da oggi fa 90 anni, e auguri però anche a Enrico Bertolino, che a me, devo dire, è sempre stato simpaticissimo, perché unisce questa ironia al prendere per strada le imprese, avendo fatto il dirigente, avendo formato tanta gente nelle imprese, era la sua vera professione prima di scoprire il talento dell'ironia e della comicità. E nel giorno in cui tutti ricordano come è giusto Paolo Villaggio, ci sono tanti altri che hanno seguito la sua cosa. Caro Oscar, a proposito di professioni, a proposito di lavoro, allora oggi Sergio Rizzo su Repubblica, e lo diciamo, non stona, perché da un mese Sergio Rizzo scrive su Repubblica dopo una lunga militanza del Corriere della Sera, racconta che siamo l'Italia dei concorsi. L'ultimo è concorso Banca Italia, 85.000 richieste. Paolo Villaggio, che Cozzalone, una ideale linea di continuità. Esatto, adesso 85.000 posti richieste per 30 posti da vice assistente Banca Italia, ma come c'erano stati di recente un altro concorso con migliaia di pretendenti per 800 posti di cancellieri. concorsi che spesso finiscono in ricorsi, sempre, fanno anche sempre. Fanno anche rima. Salutiamo Antonella De Sanctis, che è responsabile del FIBA CISL in Banca Italia. Buongiorno De Sanctis e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Anche questo concorso, si è capito bene anche da alcune sue parole ieri su Repubblica, si teme che finirà in ricorsi, noti il mio come dire, si teme, in realtà ho capito che finirà così. Che cosa contestate esattamente? Qual è il punto essenziale che contestate in questo bando? Beh, insomma, diciamo, il fatto che finisca in ricorsi è da vedere, nel senso che abbiamo chiesto degli approfondimenti legali sulla legittimità di questo bando. Diciamo, la scelta di dire prendiamo diplomati e poi li preselezioniamo con titoli aggiuntivi, sì, quali la laurea triennale, sì, la laurea magistrale, è una scelta che ha prodotto degli effetti, insomma, dal nostro punto di vista perversi, e nel senso perversi? Che gli 8.140 che saranno ammessi alla prova scritta di quiz, sì, sono tutti con il 100, il voto massimo al diploma e la laurea magistrale. Quindi noi, un ragazzo, una ragazza che ha finito brillantemente la scuola superiore con il massimo dei voti, non avrà neanche la possibilità di accedere a questo, diciamo, a questa prova. A loro sono stati preferiti persone che hanno continuato negli studi. Sì, sono state preferite persone che hanno continuato negli studi, ma secondo noi, appunto, la Banca d'Italia ha sbagliato target, nel senso che sta selezionando persone che saranno adibite ai compiti più semplici. Il viceassistente è l'ultimo, diciamo, in linea gerarchica, sì, degli impiegati amministrativi. Ci sono mansioni scritte negli anni 70 che non esistono più. C'è un trascinamento mansionistico dei commessi, quindi attività di incacciamenti, anticamera, cose degli anni passati. C'è un lavoro sulle macchine per la selezione dei biglietti che si fa nelle filiali specializzate nel trattamento del contante. Che, insomma, quindi non c'è bisogno, non c'è bisogno, sì, bastava il diploma, ma è stata, insomma, fatta questa finirà il ricorso. Ma tra l'altro sì, io mi piace cogliere questa roba, è un tratto purtroppo di tutti questi anni. Io ci dedico la puntata di oggi pomeriggio, non a caso, perché ne sono accorto ieri, cioè in questi anni sì, è ripresa un po' l'occupazione, ma dal 2008 al 2016 la cosa che colpisce, abbiamo molto più occupati laureati, e questo non dovrebbe dire benissimo, cresce la qualità del capitale umano, ma il problema è che abbiamo accresciuto molto la percentuale totale degli occupati overskilled, cioè gente che ha un titolo e aspettative, quindi, ed è stato anche investito capitale per formare quel capitale umano più elevato, molto più elevato delle qualifiche che gli si chiede di ricoprire. Quindi questo non è un bene, perché questo è uno spreco di capitale umano, A, esatto. B, ed è una delusione totale per chi deve accettare, no, l'idea, dice va bene, io allora cosa mi hanno raccontato a fare che valeva la pena di fare il sacrificio? Quindi è un problema generale dell'Italia. Dato il fatto che però oggi Sergio Rizzo racconta, siamo un paese dove i concorsi finiscono in ricorsi, per cui c'è il paradosso: a Roma da 7 anni va avanti la ricerca di 300 vigili urbani. E forse si arriva agli orari. Guardate, La Banca d'Italia è una tradizione che era diversa nello svolgimento dei concorsi, perché li fa velocissimamente. È un caso in Italia, noi in 8 mesi siamo in grado di fare bando e le persone prendono servizio. Stavolta il problema, diciamo, della lunghezza proprio però stavolta lei dice Banca Italia si è adeguata agli altri concorsi. Perché non ammettere, certo, perché questo oversize o overskill, non dare la possibilità neanche di provare? Noi riteniamo che la Banca d'Italia potesse sopportare che 80.000 persone, che non sono neppure tantissime, perché noi in passato abbiamo avuto concorsi con 120.000 domande, il precedente. Vabbè, insomma, poteva sopportare. No, ma Antonella De Sanctis, stia con noi perché vogliamo salutare anche Nicodemo Guerrieri, che è un'agente di polizia municipale di Ascoli Piceno, che tra l'altro ha un lungo carteggio con Oscar di Giannino. Nicodemo, buongiorno. Nicodemo Guerrieri, buongiorno a voi. Ciao Alino, ciao Oscar. Che partecipa anche a questo concorso, o meglio, ha fatto richiesta per questo concorso di Banca Italia, è così? Sì, ho riempito il modulo online, tra l'altro modulo molto avveniristico, diciamo, modalità avveniristica. E com'è andata? Penso bene, perché da quello che mi hanno risposto dovrei essere uno degli 8.000 e qualche cosa, in quanto ho la laurea magistrale, però io ho trovato molta difficoltà a riuscire a capire se fossi tra gli ammessi o meno. Perché? Perché sul sito non è molto semplice riuscire a trovare e capire come. Ho provato poi sulla pagina online apposita dove ho fatto domanda, ma lì è soltanto per inviare le domande, diciamo, okay, le richieste di partecipazione. Però mettiamo che sia tra gli ammessi, mettiamo così, diciamo, e noi glielo auguriamo. Trova giusto questa discriminazione, l'ha chiamata così, insomma, Antonella De Sanctis, cioè questo... Cioè tra il titolo richiesto e la qualifica bassa, parliamoci chiaro. Lei perché, col titolo che ha, visto che c'ha già un lavoro, insomma, ci incrociamo da anni, quindi so anche una pluralità di interessi, fa domanda per una qualifica di questo tipo? No, giusto non è giusto, lo spreco di, come si era detto prima, lo spreco di qualità della forza lavoro. Il bando però, bisogna dire, era molto chiaro su questo, era proprio cristallino da quel punto di vista, dicendo che peraltro mi pare le domande dovevano essere scremate fino a 3.000. Ok. Quindi... Però capisco e comprendo che non c'è. Cioè, ma allora perché lei fa domanda se la qualifica è bassa? Ho visto il mansionario, l'ho appreso dalla interlocutrice che avevate prima. Sì. Però ho visto su alcuni forum, eccetera, quanto era il salario. Ed era comunque interessante. Giustamente. Sì, è più alto del mio attuale. Quindi dice, ecco. E poi magari si apre anche la possibilità a concorsi interni. Poi. Chiaro. Chiaro. E comunque dice il bando era cristallino, cioè il timore che si finisca poi in ricorsi, che è più che un timore, quasi una certezza, come lo vede lei, Guerrieri? Come la vedo? La vedo che probabilmente ci saranno, come spesso accade, soprattutto in concorsi così importanti, cioè per un'istituzione così importante come Banca d'Italia, chiaramente. Si poteva fare altrimenti, questo è fuori di dubbio, concordo con voi. La questione però è anche altra, cioè se Banca d'Italia decide di che quelli siano i titoli necessari per delle qualifiche, abbiamo visto che la cosa può essere criticata o può essere compresa a seconda del punto di vista, però il problema è che qui ogni tipo di decisione presa, Alessandro, da chi bandisce una gara viene impugnata come se dovesse passare per la bilancia del diche, no? Il diritto e la giustizia, voglio dire. Non so, esisterà un criterio per il quale chi bandisce una gara può stabilire delle regole? Ecco, e questa è appunto, in questo paese la risposta è no. No, esatto, perché quando si dice sono ammessi le persone dai 25 anni in su, ma io ho 24 anni e 11 mesi e 9 mesi. Allora, stai ledendo l'articolo 2 della Costituzione, l'articolo 2, l'articolo 3. Non esistono diciamo che non esistono mai dei punti, dei paletti, e va bene tutto. Cioè questa... Dica, alla fine forse è una polemica, peraltro, che spesso c'è, cioè, probabilmente questa cosa si lascia troppo ai TAR e poco a un controllo magari preventivo un po' leggero per dire ma questa qualifica chiedete troppo per come titolo di studio. Ai TAR è lì che poi si fa ricorso, e spesso i TAR, almeno oggi leggendo Sergio Rizzo, sono quelli che accolgono e bloccano, fanno rifare concorsi e li bloccano a volte per anni, quindi il dato di fatto c'è. Per concludere, De Sanctis, ma voi avete già chiesto dei pareri, ma siete già certi, mi sembra di capire, che ricorrerete in qualche modo? Ci sarà qualcuno che vorrà fare un ricorso al TAR? No, guardi, noi ci stiamo muovendo su due binari. Il primo binario è quello di prendere gli 8.140 e offrire dei servizi per la preparazione a questo concorso. Quindi abbiamo realizzato insieme al sindacato Falbi un bel volume ben fatto, assegnato a una società. Vabbè, quindi lo passiamo anche a Guerrieri, lo passiamo anche a Guerrieri. Certo, così, assolutamente. Così almeno si prepara. Servizi, questo, viva il sindacato che offre servizi, questo mi piace. Certo, ma certo, il sindacato che offre servizi, okay. Poi a settembre faremo un corso presso la Sapienza per velocizzare, perché qui stiamo parlando di fare 100 domande in 60 minuti, quindi al di là di quello che conosci c'è anche una tecnica che è necessaria per velocizzare. Il vecchio Raimondo Lullo si chiama mnemotecnica, eravamo forti nel 500 su questo. Vabbè, e la seconda cosa, questa qua? No, questo è un binario, è gli 8140 per rispondere a Nicodemo, che sapranno se sono stati ammessi il 27 luglio, inserendo il codice fiscale nel sito della banca, verrà detto se è stato diciamo selezionato dopo il passaggio dei titoli oppure no. Quindi diciamo la conferma definitiva è il 27 luglio e questo è un binario. L'altro binario è quello di fare un approfondimento di tipo di legittimità, perché criticata la scelta gestionale che secondo noi produrrà delle persone scontente che poi che verranno a lamentarsi anche da noi, non soltanto al servizio risorse umane. Detto questo, il profilo di legittimità noi lo facciamo verificare, ma il ricorso non è che lo fa il ricorso lo fanno, vedremo, certo vedremo. Lo faranno, viene di essere discriminato, come no, anche questo è un servizio che mettiamo a disposizione quindi esclusi, servizio agli 8000 e servizio agli amareggiati. No, ma è chiarissimo. Poi la cosa più fantastica è che noi spendiamo più di 100 milioni al mese per impugnative dei concorsi in Italia, dice la cifra fatta da Sergio Rizzo. Ma esatto, e nel ringraziare i nostri interlocutori, ricordo, caro Oscar, ti faccio questa domanda che è apparsa nel quesito in un concorso per laureati in beni culturali. Bronzo. Attenzione, concentrati bene, hai le cuffie e quindi già le cuffie. Mi ripeta la domanda. Allora, di che cosa, di che materiale sono composti i bronzi di Riace? Attenzione, c'è un multiple choice. I bronzi di Riace saranno in A, legno. B, marmo. C, ti tocchi, no. C, bronzo. No, sei troppo difficile, no, mi ripeto la domanda. Allora, giustamente l'ascoltatore ha detto, sì, sai, i bronzi di Riace sono fatti di Riace. Comunque, vuoi, aspetta, no, mettiamo la pubblicità. Guarda che sembra uno scherzo, non è uno scherzo. Ti diamo 3 minuti per meditare. I bronzi di Riace sono fatti di A, marmo, B, legno, C, bronzo. Pensaci, capito? Bene, ce lo dice al rientro. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:47 minuti, caro Oscar. Allora, hai meditato bene? Sì, ho meditato bene, allora. Che a volte la libertà è un bene così complicato che ti fa sbagliare anche la risposta di quelle tre domande. I bronzi di Riace sono fatti di legno, marmo, sono fatti di bronzo. Legno, marmo, bronzo. Perché questa domanda, dice, ma è stupido chi la fa. Attenzione. Mi voglio fregare. No, e quindi rispondo legno. Questa domanda è fatta con l'ipotesi, che magari è fondata, fondatissima, che comunemente molta gente non abbia la minima idea di che cosa sia il bronzo. E quindi pensa che i bronzi sono nomi propri, capisci? Guarda che in realtà io ci ho pensato nella pausa. Sì. Uno di Perri dice, diamo per scontato, è un cretino che ha fatto la domanda. Come fossero i bonzi. L'ipotesi i bonzi, sottostante è che molti non abbiano idea. E magari questa ipotesi non è infondata. Effettivamente non avevo pensato a questo. Ecco, quello è il vero motivo, perché altrimenti uno dovrebbe prendere chi ha formulato queste domande e dirgli tu per primo vai a casa invece che selezionare. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Ecco, cavallo bianco. Mentre bianco più o meno tutti sanno. Bronzo, forse mi sono detto, può essere. Non si sa. Ecco, di qui la razza di una domanda di questo genere, che altrimenti no, farebbe... Comunque mi sono reso conto, la libertà uno ce l'ha e non si rende conto. È così un po' anche quando ha letto, non si rende conto, c'è chi non lo ha fatto. Non bisogna colpevolizzare. Pensa, io in Cina verrei arrestato, ho capito stamattina, perché c'è un articolo su Repubblica che dice che chi stona l'innazionale, addirittura stona. Figurati, io ne ho fatto una versione parafrasi che è la mia sigla ogni sabato mattina. Dell'inno italiano, non cinese, italiano. Perché sennò verrei messo in galera immediatamente in Cina. Vero. In Cina hanno fatto una legge, vogliono fare una legge per cui chi stona l'inno nazionale. Pensa a mia moglie, c'è un ergastolo, lei non è capace di fare una nota intonata. In compenso, caro Oscar, un tuo parello volevo sul Giappone. oggi racconta il Sole 24 Ore che in Giappone stanno meditando, guardate che non è una barzelletta, di alzare l'età pensionabile a 85 anni. Fantastico. Se si è in salute, se si arriva razionale. Ma dai, su. Ma si sa poi. Guarda la curva demografica giapponese che è come quella italiana. Io ricordo in storia del diritto, ho studiato altri secoli. Ho studiato il diritto del lavoro, tutto un manualetto su come il mondo del lavoro in Giappone. Ma erano altri tempi. Capisco, ma tutto dai, cambiato. 85 anni. Beh, a lavorare. Ma certo, se la media diventa 115. Di vita attesa, caro mio. Sì, ho capito. Non ci sono corti giovanili che sostengano i contributi da versare ogni mese con un sistema di ripartizione e con quelli che si pagano le pensioni ogni mese, ragazzi. Sì, ho capito. Io ma non dai, so cosa dire. 85 anni. 85 anni. Quando poi ne avrei 86 e sarei lì a dire che non molli ancora in diretta. Sono in pensione. 85 anni. No? No, comunque, al di là della battuta, la battuta esprime purtroppo il punto a cui si arriva se non ci si pone il problema per tempo, perché la demografia di un paese è una questione su cui si interviene con effetti nel medio lungo periodo. Siamo un paese noi per giovani? Risposta: no, abbiamo un welfare che i cui effetti sono concentrati tutti sugli over 65, continuiamo a spendere miliardi per prepensionare. Questo vuole i sindacati e i partiti, che si ricordano che a votare vanno quelli con l'età più elevata. Tanto, e alla fine, ecco la contraddizione, tanto, così grande. Il 23% dei giapponesi over 65 ha un lavoro, il 23% certo, lavoro. Certo, perché quelli hanno la partecipazione del mercato del lavoro, mica ce l'hanno bassa come in Italia. No, vabbè, ho capito, però. E il bello è che lì è elevata tra chi è anziano e tra chi è giovane, perché un'altra palla è prepensioniamo così diamo i posti ai giovani, altra palla, no, di cui si nutre il bene dibattito politico però, italiano. Però ovviamente. Anche arrivare a 85 anni a recarsi sul posto di lavoro a 84. Quanti anni ha? 84? Non lo so. Allora, un po'. Domanda, Alessandro, sai qual è ancora l'età media del pensionamento annuale? Malgrado sulla carta sono tutti a 66 anni, no? Con la legge Fornero. Ecco, abbiamo superato i 60 anni, siamo a 61 e qualche mese, da pochissimo, quindi in Italia tutti si lamentano perché tutti vogliono continuare ad avere l'idea che vanno in pensione a 40-50, questo è il punto di fondo. Vabbè, guarda i nostri ascoltatori, ci chiamano sull'immigrazione. Sergio ci chiama da Malta, è vero? Sergio da Malta, sì, buongiorno. Sono da Malta e chiamo per dare il mio contributo, non per rispondere alla domanda sui bronzi ovviamente, ma per tentare di dare una risposta alla domanda che nessuno vuole rispondere. Se perché Malta non accoglie o non accoglie i migranti? No, la risposta è ne accoglie zero. Malta ne accoglie, va considerata che è un'isola e quindi in quanto isola non può certamente accogliere le masse che arrivano sul territorio italiano. No, guardi, ne accoglie quelli che fanno domanda, arrivano, ma accoglie di questi migranti barche zero. Guardi, io invito lei o qualcun altro a fare un giro su Malta e vedere quanti migranti ci sono. Ma c'è questo una, sì, ma quelli che fanno domanda e vengono, arrivano lì, magari all'origine, e arrivano lì perché hanno il diritto, eccetera, vengono selezionati prima, ecco, diciamo, ma di queste migrazioni in barca ne arrivano zero, glielo assicuro, lo scrivono tutti i giornali, lo scrivono. Un'isola, gli immigrati preferiscono giustamente approdare in Italia perché poi hanno un corridoio per sfogare in altre nazioni. Anche in Francia si dovrebbero fermare lì ed essere rimpatriati. Anche in Francia ovviamente avrebbero un corridoio. Ma questo è uno dei motivi di perché non arrivano sulle coste maltesi. Sì, questo sì, è uno dei motivi. Chiaro. Anche in Francia, sai, il motivo fondamentale è che non ci vengono portati. Esatto. Garantisco che non fanno l'appello una volta solo ONG. Dove volete andare? Ferri, noi vogliamo a Siracusa, noi a Malta. Non funziona così. C'è un unico porto dove vanno. Comunque, insomma, perché altrimenti toccherebbe dirle molto più grande. Non è una battuta, però sa, anche l'isola è un'isola, anche la Sicilia è un'isola. Se la mettiamo così, anche Lampedusa, però ovviamente stiamo parlando di grandezze diverse, quindi non faccio nessuna battuta. E anche la Francia ha un corridoio per l'Europa, anche la Spagna ha un corridoio, anche la Grecia hanno corridoi per l'Europa, Malta no, effettivamente è un'isola. Comunque, Giuseppe da Napoli, buongiorno Giuseppe. Buongiorno Giannino. Eccoci. Volevo dire, per quanto riguarda il nostro paese, che noi stiamo affrontando la migrazione come la dobbiamo affrontare, cioè dobbiamo salvare le persone, c'è poco da fare, ma possiamo stabilire se è un fatto di costi, di provvista di costi, ma lei immagini se noi incominciassimo a mettere dei paletti, questo sì, questo no, a mezzogiorno la domenica Papa Francesco che cosa direbbe da quella finestra? Noi dovremmo scappare tutti se il nostro paese incominciasse a dire questi sono buoni, questi sono cattivi, questi sono ONG, questi sono nostri, questi non sono nostri. Il problema che io dico, Ma qualcuno si legge le statistiche demografiche? Fra 15 anni la Nigeria avrà 400 milioni di persone. Il problema è che da un lato ci sono persone che mangiano 3 volte al giorno e dall'altro ci sta qualcuno che non mangia proprio. È evidente che quello che non mangia proprio andrà sempre da quello che mangia 3 volte al giorno, ma è un fatto questo universale, ci dobbiamo rendere conto che è universale. Credo che nessuno di noi, Oscar, come universale, che gli Stati Uniti hanno avuto bisogno nell'Ottocento fino a un certo decennio, Novecento, di centinaia di migliaia di persone ogni anno. Poi a un certo punto hanno fatto giro di vite, e nella logica di questi fenomeni enormi, enormi come la migrazione verso il Nord America, il Sud America, un tempo poi sostituita da altri punti di approdo perché altri sono i paesi di provenienza, il problema è la regolazione. E non è che la regolazione, la storia non ci insegna niente, ci insegna tante cose, ci sono diversi approcci. C'è come l'Australia dice, certo, quello c'è l'Oceano Pacifico intorno, e avete ragione, ovviamente non ha poche miglia nel Mediterraneo, però ha scelto da oramai dall'inizio degli anni 90 di scegliersi per capitale umano chi vuole e da dove vuole. Ecco, cioè l'essenziale è non arrivare impreparati. Però noi siamo impreparati, dall'inizio degli anni 90 siamo iniziati a diventare un paese che invece che esportare, soprattutto importava, anche se abbiamo ripreso a esportare nella crisi, per così dire, capitale umano formato, perché sono 4,8 milioni gli italiani all'estero dell'aereo ormai, e sono raddoppiati in questi 8 anni, a più 55%, però noi la regolazione nel tempo non l'abbiamo imparata. Infatti, nessuno mette in dubbio che siano queste migrazioni, certo, ma che siano regolamentate e che siano redistribuiti equamente. Cioè non è che siccome in Nigeria sono 400 milioni e hanno fame devono venire tutti in Italia, si spostino, vengano in Europa. Giuseppe dice, Papa sì, cosa dice? Beh, ho capito, però il Papa cosa dice? Il Papa dirà quello che vuole, ma il problema è però che gli italiani, come si vede, fanno perdere le elezioni, cioè iniziano a misurare l'accoglienza con criteri di sospetto. Ma no, poi non sarò io irreverente a dire il Papa cosa dice, e uno può rispondere chi se ne frega di quello che dice il Papa. Cioè, però l'hai detto. Ma c'è anche chi lo può pensare, ma nel senso è il capo di uno stato estero, voglio dire. Ah, poi ero io l'anticlericale. No, non sono anticlericale, è un dato di fatto. Poi io lo ascolto e c'è chi lo può rispettare. No, no, no, che ti arrestano. Andiamo. Rientriamo dopo il giornale. Dell'ultimo prete impiccheremo il Papa e il Re. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, caro Oscar, ammettilo, dai, anche tu quando oggi hai visto pagina 25 del Corriere della Sera e hai letto il titolo Il figlio preferito esiste, ho capito mamme, il problema ammettete, che c'è a casa no? mia, sì, ho capito. Cioè esiste, cioè i genitori non lo ammettono pubblicamente, ma se richiesti in anonimo, ma voi quale preferite, chi ha più figli? Ovviamente. Margherita non lo ammetterebbe mai, ma Margherita, esiste. Margherita, tua moglie. Esiste. E adesso ci devi dire anche chi no, sarebbe dei due. Non posso, però esiste. Esiste, esiste un figlio esiste. Preferito dei due? Sì. Per Margherita. E per te? No, io credo di poter rispondere senza albagia, non perché sono migliore, sì, perché non merito niente di fronte a quello che ha fatto mia moglie per i figli, che non mi pare, come direbbe la Boldrini. No, però no, che non hai fatto niente per i figli, insomma, rispetto a tua moglie. No, ho fatto una parte, ma rispetto agli sacrifici inutile. A noi non venivano, quindi insomma, chi vuole capire capisce. Okay. Casa. Ma detto questo, secondo me nel suo caso è più accentuato il problema. Io credo di no. Vabbè, di non avere preferenze. Però, cioè, ho scoperto nel tempo che tutto quello che credevo teorico sul rapporto tra una mamma e il figlio maschio per i se esiste come problema. C'hai dato un indizio. Vabbè, comunque sappiate che il figlio preferito esiste. Questo ammettetelo, cari genitori. No, anche, non lo ammetteranno no, non mai. L'ammetterete mai, però in realtà nel vostro intimo avete delle preferenze. Comunque, torniamo a bomba. Poi come ci sono tante ragioni. Che perché eccolo, vedi io, che poi no, dopo... Ma perché no, poi ci io medita, mi sforzo di capirlo. Dopo, no, beh, per me è un problema abbastanza impegnativo, perché io non devo sbagliare, non devo avere la presunzione di poter dire io come si fa. È complicatissimo. Guarda che al confronto ho scoperto in questi anni che credevo che si sia risolto tutto con il sapere libresco, ma neanche per idea. Gestire il rapporto parentale è tutto poi che può aver letto, ma la realtà è diversa. Sì. Comunque, c'ho gli ascoltatori, c'è Efumi da Milano, lo pronunciamo correttamente, buongiorno. Buongiorno, signore Milan, ecco, l'avete pronunciato bene, visto che lei è milanese, quindi è Fumì, come me l'hanno spiegato quando sono arrivato qua 25 anni fa. Sì. È una parola milanese, vero o no? È Fumì, ma lo so. No, non lo so, cioè cosa potrebbe somigliare a qualcosa? Ma mi dicono Fumì. Vuol dire che cosa? Ah, Fumì, sono stato non so, Fumì. Fui io, non lo so, però allora, non proprio, ma vai, comunque. Allora basta aggiungere la Fumì. Che ci vuol dire? Allora, io su questo problema dei flussi migratori che da anni che l'Italia grida al lupo. Secondo me è come si nasconde dietro qualcosa che tutti lo sanno, parlo ovviamente dei politici, perché non è possibile che l'Italia, che non è impegnato di punto di vista guerra proprio tra tutte queste guerre in spazio nel mondo, è l'Italia che raccoglie tutto il direi sudici di queste guerre qua. Allora, la settimana scorsa mi sembra, sì, la sindaca, si dice, di Lampedusa ha ricevuto un premio di un paese africano, della Costa d'Avorio, il mio paese. Secondo me è questa cosa qua è come si chiama, prende in giro i politici italiani, sì, o li fanno apposta, perché non è possibile che la Costa d'Avorio, che era che è un paese primo produttore del cacao, oggi come oggi ha almeno 20% di questi immigrati che fuggono dalla Costa d'Avorio per l'Europa attraverso la Libia e poi per entrare in Italia. Non è possibile, quindi c'è qualcosa che non va. Allora, i politici, direi l'Unione Europea, deve aprire l'occhio che ci sono questi capi di Stati che per loro non se ne frega niente della democrazia della gioventù, e li fanno, come si chiama? Li fanno andare. Una dittatura incredibile, proprio in Costa d'Avorio, una dittatura incredibile che fa scappare tutti. Tutti. No, ma è chiaro che voglio dire, è Fumì, non avevo capito. Lo faccio io. Le classi dirigenti dei paesi falliti e noi siamo rimaniamo indifferenti rispetto al fatto che questo fenomeno genera un bel pezzo poi di immigrati economici. Ma infatti che questa immigrazione ci sia. Classi dirigenti corrotte. Ma è chiaro che ci sia, è evidente. Noi quello che chiediamo è che vada gestita, che venga regolamentata. Guarda quanti sono e Fumì. Faccio io giustamente il Fumì in dialetto milanese. Grazie Fumì dalla Costa d'Avorio. C'è Domenico dalla provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno Milan. Niente, io volevo intervenire sempre sullo stesso argomento. Mi associo al discorso che ha fatto il telespettatore che mi ha preceduto. Da calabrese dico che il fenomeno dell'immigrazione clandestina, se così si può ancora chiamarla, è un fenomeno che investe anche il nostro territorio, soprattutto il nostro territorio, e soprattutto un territorio che è poverissimo. Noi qui in Calabria siamo costretti paradossalmente, o meglio, con favore a sostenere le tesi di Matteo Salvini, per esempio, il quale già da 3 anni diceva quello che adesso sta andando a dire in giro Gentiloni, e per cui in realtà riceve sempre delle picche, come avverrà anche a Tallinn, dove praticamente sicuramente nessuno accetterà quelle che sono le prospettive, i progetti, i programmi e gli impegni che vorrebbe prendere oggi, che ormai è troppo tardi, il signor Gentiloni con il suo governo. Il fenomeno migrazione per la Calabria, ma in genere per l'Italia, significa non soltanto una iattura di carattere economico che spesso e volentieri diciamo viene banalizzata, ma che in realtà esiste, ma rappresenta anche un pericolo di carattere sanitario, perché se noi leggiamo gli articoli di chi scrive di immigrazione, che raccoglie i dati sugli sbarchi recenti che sono avvenuti a Reggio Calabria e Corigliano Calabro, può percepire come negli sbarchi arrivino persone malate di scabbia, malate di varicella, insomma un pericolo di carattere sanitario che non credo per una regione come quella calabrese, che ad oggi è stata tradita dalla sua classe dirigente di centrodestra e di centrosinistra, però, possa essere gestita al migliore dei modi, Domenico, senza pericolo. Cioè, secondo me, Oscar, poi non so come la pensi, attenzione al rischio di dire gli immigrati ci portano le malattie, perché voglio dire, è chiaro che come tutte è un aspetto, quello l'aspetto sanitario, certo, che fa parte dell'immigrazione, delle grandi migrazioni, va gestito anche questo. Credo che abbiamo gli strumenti, volendo, per gestirlo, però l'idea del arriva l'immigrato ci porta le malattie è una china un po' pericolosa. Siamo completamente d'accordo. Poi, dopodiché, da gestire però altri fenomeni. Vogliamo parlare anche di un altro argomento? È estate, annoso, sì, dibattito sui turisti. Hai visto che a Gallipoli, non so se per opera di D'Alema, il sindaco vuole cacciare i turisti maleducati? No, D'Alema ha tante colpe, non attribuiamo neanche questo. Infatti, era uno scherzo. A Venezia invece c'è il grande dibattito da anni, no? Tra i perla italiana e mondiale del turismo. E quindi numero chiuso, non numero chiuso, come si fa, come si seleziona, esatto, chi controlla cosa, anche perché ci sono dei comitati anche di persone che protestano periodicamente al grido di Mino vado via, per esempio, no? A dire sono veneziano e non possono sopportare a volte questa invasione letteralmente. Da una parte non si vuole il turismo, dall'altra quando tutta l'economia diventa solo turismo si finisce per dipendere da turismo di massa non regolamentato a basso consumo. E ovviamente le conseguenze sono un impatto micidiale. Esatto. Per esempio, esiste un'ipotesi di turismo sostenibile per una città come Venezia. Salutiamo Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria al Ministero dei Beni Culturali. Ben ritrovata e buongiorno e grazie. Buongiorno. Esiste questo turismo sostenibile, secondo lei? C'è una ricetta per dire tu sì, tu no, ma numero chiuso? Qual è questa ricetta? Una ricetta univoca naturalmente non esiste, perché San Gimignano, Capri hanno diversi problemi da quelli di Venezia, però certamente lo scoraggiare quello che si chiama il turismo mordi e fuggi, cioè quel turismo che viene, sta due ore, anche Firenze ha questo problema con le grandi navi che arrivano a Livorno e poi vanno solo per vedere Piazza della Signoria, il Ponte Vecchio e ripartono. Ecco, scoraggiare questo tipo di turismo è sicuramente una strada per favorirne invece un altro, la cui ricaduta è maggiore ed è anche però molto più sostenibile per la città. Ma perché scoraggiarlo, sottosegretario? Beh, scoraggiarlo perché ormai siamo arrivati a un punto in cui queste città non sono più gestibili e questi flussi turistici. Teniamo presente che il turismo è l'unica industria in aumento nel mondo, quindi quello che noi vediamo oggi sicuramente tra 5 anni sarà il 30% di più. E non c'è dubbio che queste città, anche per la delicatezza del loro patrimonio culturale, non sono più gestibili con questi numeri. Venezia, centro storico, ricordiamolo sempre, ha 53.000 abitanti e i turisti sono circa 30 milioni. Quindi è difficilissimo pensare che si possa gestire dei flussi turistici di questa entità. È chiaro che noi vorremmo i luoghi dell'arte, della cultura, della bellezza aperti per tutti, però bisogna anche essere molto realisti. C'è un punto in cui arriva la rottura, e la rottura in fondo la vediamo anche nell'esasperazione degli abitanti. Oggi per esempio c'è tutto un progetto raccontato su Sole 24 Ore per liberare dalle grandi navi diciamo il centro di Venezia, ecco, con un nuovo obiettivo, il piano Marghera, così è stato definito. Lei è una di quelle che dice via le grandi navi da Piazza San Marco? Io ho sempre trovato un errore, beh, da via Piazza San Marco, ovvio, via subito, ho sempre trovato un errore parlare delle grandi navi come di un segmento unico. Le grandi navi vanno dalle 40.000 tonnellate alle attuali 160.000, che vuol dire 350 metri di lunghezza. Ora, questo considerarlo un segmento in blocco per cui ho tutte o niente, secondo me è sempre stato un errore. Con la laguna di Venezia sono compatibili grandi navi di dimensioni relative. Tutte le altre, secondo me, ma è una mia opinione, devono, se comportano scavi ulteriori e dissesti nell'equilibrio morfologico della laguna, devono trovare una loro destinazione nell'alto Adriatico, considerato un sistema turistico integrato, di cui Venezia è naturalmente uno dei punti d'arrivo, ma non il solo. Altrimenti Venezia finisce per essere veramente, come dire, smembrata da questo flusso turistico inarrestabile. Quindi io credo che si dovrà arrivare a un punto per dire le grandi navi fino a una certa tonnellaggio entrano in laguna, oltre quel tonnellaggio bisogna trovare un'altra soluzione, che poi sia Marghera o sia Vittorio Emanuele, questo poi lo valuterà anche il Ministero dell'Ambiente facendo le sue valutazioni, che sono fondamentali, non dimentichiamo. No, è chiaro. Tra l'altro, Oscar, qua insieme al sottosegretario abbiamo un avvocato della Commissione Europea, ma in questo caso è l'organizzatore della manifestazione Mino Vado Via, appunto, è nata così. Marco Gasparinetti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito, ma dal momento che avete fatto riferimento al mio ruolo istituzionale, sia chiaro che in questa trasmissione parlo di sono privato come cittadino, la manifestazione si è svolta una domenica, il mio tempo a Venezia viene dedicato a questa battaglia. Cioè, che battaglia è? Che battaglia è? Bisognerebbe scoraggiare il turismo mordi e fuggi? Vi dà fastidio? No, andiamo per ordine. Io ho ascoltato con grandissimo interesse le dichiarazioni della sottosegretaria Borletti Bultoni, di cui apprezzo l'equilibrio. La soglia di carico che tutti chiediamo è un concetto abbastanza facile da capire. Se lei prende un ascensore c'è scritto 8 persone, 10 persone, 4. E più di quello l'ascensore non può portare. È una questione anche di sicurezza, incolumità delle persone che prendono l'ascensore. A Venezia ormai da tempo abbiamo superato questa soglia di carico, nel senso che la città non regge più fisicamente l'urto di questi 30 milioni di turisti a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria, di cui molti non sono turisti, non chiamiamoli turisti, perché Venezia vive il turismo. Lei come definirebbe una massa di persone che la domenica vengono scaricate dai lancioni, motonavi, in arrivo da Jesolo, soltanto perché l'albergatore di Jesolo vende il pacchetto presentandosi come la spiaggia di Venezia, mentre la spiaggia di Venezia è il Lido, noi abbiamo una spiaggia meravigliosa. Nel momento in cui i tour operator hanno venduto un pacchetto, gli dai un pacco al turista tedesco, il 50% dei turisti di Jesolo sono tedeschi, dice che noi siamo la spiaggia di Venezia, devono portare a Venezia, allora che fanno? Li caricano su queste motonavi che vomitano in arrivo delle Schiavoni, dove noi abbiamo manifestato domenica, migliaia di escursionisti che arrivano per 2 ore e ripartono. È turismo questo. Oscar, non lo so, è turismo che sta 2 ore, perché Oscar è perplesso. Guarda. No, io trovo che anche qui, quando per anni non si vede un fenomeno, poi intervenire diventa più complicato, nel senso che il diritto all'accesso è... Assolutamente, la libera circolazione è un diritto garantito sia dalla Costituzione italiana. Il problema è che secondo me pian piano bisognava immaginare negli anni che delle limitazioni sono necessarie. Questo io credo che sia fondamentale, perché i flussi hanno un impatto, esattamente come hanno un impatto i flussi delle acque di lavanti sulle strutture, se uno non le manutiene, perché poi cadono. Questo è il punto. Allora, il problema è che secondo me noi abbiamo raggiunto dei livelli nei quali il fenomeno mondiale, perché cioè nel caso di Firenze e Venezia stiamo parlando di fenomeni mondiali, e come anche a Roma, anche a Roma il problema è evidentissimo. A Roma è un problema però diverso, un po' più grande. Però aspetta, sul tessuto urbano di Roma, la tra virgolette succhizzazione del mordi e fuggi, cioè il fatto che ci siano interi quartieri in cui la gente abbia liberato gli affitti e faccia affitti mordi e fuggi, è diventato un altro degli aspetti del problema. Allora, la verità è che in Italia da anni, quanti anni sono, domanda che su Venezia ci interroghiamo, visto che parliamo di Venezia, su come intervenire per regolamentare i flussi. Poi, come al solito, quando si tratta di decidere, come lo dicevamo prima, per i 20 anni di trascuratezza su un modello su come accogliere i migranti, perché siamo sempre lì, le decisioni di fenomeni complessi la politica stenta ad assumersele, oppure magari si fa una proposta estrema perché si vuole sollevare il tema, per 3 giorni, però poi la capacità di tradurlo in uno schema operativo che funzioni e che contemperi il diritto all'accesso di chi viene per poche ore, anche sì, dal resto del mondo, ma con il fatto che ovviamente a quel punto bisogna introdurre ticket. Io sono favorevole ai ticket, non ci posso fare niente. Io credo che l'incentivo e il disincentivo monetario siano in luoghi limitati che hanno bisogno di tutela più che giustificato. So, per Gasparinetti, esempio. Voi quando dite Mino vado via, vuol dire noi veneziani non pensiate che in questa logica siamo noi a dover, come dire, farci da parte. Si sono già fatti da parte. È la nostra città, è la nostra città. Presidenti e artigiani, domenica, accomunati alla stessa battaglia, hanno voluto dire che, pur con tutte le difficoltà di continuare a vivere e a lavorare a Venezia, pur elementari che il vivere e lavorare in stato d'acqua comporta, noi non intendiamo farci da parte solo perché ogni metro quadro a Venezia è appetibile dal punto di vista delle locazioni turistiche o della Biennale, perché c'è anche la Biennale che nell'area circostante ormai si sta allargando di smisura e gli artigiani fanno sempre più fatica a trovare delle botteghe ad un prezzo ragionevole. È un problema. La cosa straordinaria di domenica è che la Confartigianato ha aderito, gli artigiani erano con noi, uno dei cori delle 2000 persone che hanno manifestato era più botteghe per gli artigiani. E che è questo? Io credo che se andiamo a interrogarci sul fatto che domenica c'erano i Boy Scout con noi, la Giudecca, sì, isola aggredita ormai da speculazione turistica, perché la giunta in carica ha dichiarato che questa è una nuova frontiera del turismo, la Giudecca che è sottoutilizzata dal punto di vista turistico. Ma ci rendiamo conto, l'unica isola dove c'è ancora pace e tranquillità, dove Elton John ha comprato casa proprio per quello. Ci mancherebbe anche quello. Non so, sottosegretario Borletti Buitoni, un ticket, lei come lo vede? Un ticket d'ingresso per entrare a Venezia? Perfettamente d'accordo con Giannino che in Italia non si riesce mai a decidere niente. L'uscita delle grandi navi dal bacino di San Marco in un paese normale si sarebbe decisa in 24 ore. Fatta questa premessa, io credo, e sono di nuovo d'accordo con Giannino, che il ticket permetterebbe anche una modulazione sugli orari e sulla stagionalità abbastanza importante. Uno dice non lo metto dalle 5 di mattina alle 10, non lo metto in novembre, dicembre, gennaio, quando forse Venezia ha bisogno di turismo. Cioè l'incentivo economico è comunque utile per modulare determinati flussi, però ho capito che su questa idea anche c'è questa. Una totale opposizione. Però lei sarebbe favorevole. E poi ci sono i cosiddetti, per concludere, volontari del decoro, che lei sponsorizza, no? Che cosa sarebbero i volontari del decoro? Molto piccola, però credo utile. Quando ero al FAI e facevamo delle manifestazioni importanti, i nostri volontari si attivavano affinché queste manifestazioni si svolgessero bene, voglio dire, senza un danno per il bene culturale. Ora io credo che trovare dei volontari che proprio si occupino, perché le multe ci sono, se uno si spoglia e si butta in una fontana o tenta ancora peggio di rompere qualche cosa, ha delle multe, ma quelle tanto poi non le paga nessuno. Ecco. Invece avere delle persone che girano, che siano molto riconoscibili e che siano proprio lì per cercare di evitare che atti da parte dei turisti possano essere contro il decoro della città, io lo ritengo una cosa che avrebbe anche un eco pubblico molto positivo, nel senso, perché no, voglio dire, per giovani che avvicinano i turisti, che dicono no, guardi, lei qui non si siede a mangiare il suo curry, come è successo da parte di un gruppo di indiani a Piazza San Marco, ma se lo fa nel suo albergo. Ecco, mi sembra che tutto questo non sia così impossibile. Però, ripeto, ha perfettamente ragione Giannino, in Italia non si fa. E con questo, ahimè, accettiamo la nostra cura di Oime. Va bene, intanto noi vi ringraziamo, avvocato ovviamente Marco Gasparinetti e Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario ai beni culturali. Io già vedo che dietro la fine, in solidarietà verso i veneziani, ci proporranno un'ombra divina per finire la trasmissione, però sono le 9:30, quindi aspettiamo, siamo in fascia tutelata. Almeno 2 o 3 ore. Ringraziamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Chiara Compagnoni in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. Dai, ci ritroviamo domani, puntuale, ci spiace gli ascoltatori, Paolo Dalla Spezia, lo recuperiamo domani, intanto siamo qua in onda sempre, abbia pazienza, a domani.